Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Credo che il compito della Bundesbank sia quello di assicurare il proprio obiettivo statutario. Non credo che sia quello di partecipare al dibattito politico italiano. Io non parlo delle Landesbank o delle Sparkenkassen. Parlo mai di neuropsichiatria? Parlo mai di botanica? Parlo mai di algebra? Michele, tu stai facendo un film bellissimo. Io non parlo di cose che non conosco. Parlo mai di epigrafia greca. Parlo mai di elettronica. Parlo mai delle dighe, dei ponti, delle autostrade. Io non parlo di cardiologia. Io non parlo di radiologia. Non parlo delle cose che non conosco. Non entro nel merito di come sono gestite queste strutture che sono oggetto della vigilanza della Bundesbank e rispetto il lavoro della Bundesbank. Quando la Bundesbank ha il desiderio di parlare con noi è la benvenuta, partendo dall'assunto che l'Europa è dei cittadini europei e non dei banchieri, né tedeschi né italiani. E scusate cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa assonanza, questa comparazione tra il discorso di oggi di Renzi, che dice mettete voi banche, banca tedesca in particolare, il naso, ficcare il naso nel dibattito italiano, con Nanni Moretti che dice ognuno parli di quello che sa, lui non parla di epigrafia greca o di radiologia o di cardiologia, eccetera, eccetera. Bene, io direi che iniziamo così un po' scoppiettanti oggi, perché è l'ultimo giorno della settimana, e fuori almeno qui a Milano il tempo sicuramente non invita a esserlo, però sforziamoci. Tra poco vi racconto la giornata di oggi. Tra le notizie principali, naturalmente, purtroppo, anche la scomparsa di un artista davvero poliedrico. Oggi si sono sprecati gli aggettivi su di lui, perché era soprattutto un uomo di grandissima sensibilità, di enorme, incontenibile creatività, che è Giorgio Faletti. Ne parleremo. Ci sarà anche un personaggio che ha fatto un po' la storia dello spettacolo italiano, che lo ricorderà tra poco. Se volete anche voi, attraverso i messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso gli sms al 349 238 6666. Poi, fra i vari temi, parleremo anche di F-35, perché si ritorna sulla polemica, visto che gli Stati Uniti hanno detto ma c'è stato un incidente, un incendio, non siamo molto sicuri che questi aerei vadano bene. Quindi poi di nuovo ci sono state anche le reazioni anche qui in Italia. Ne parleremo con un esperto di armi, di armamenti e di sicurezza. Però intanto vediamo che giornata è stata. Unione Europea, Renzi chiede che la banca tedesca resti fuori dal dibattito italiano e Barroso dice c'è bisogno di un'Italia forte. F-35, il Pentagono li lascia a terra dopo l'incidente e vuole ulteriori verifiche. Il PD commenta no ad aerei insicuri. Arrestato Marco Milanese, manette all'ex braccio destro di Tremonti per corruzione nell'inchiesta sul Mose. È a rischio reiterazione del reato. Istat e crisi, cala il potere d'acquisto delle famiglie che però tornano a spendere, domani partono i saldi. L'omicidio di Roma, Fanella, il cassiere di Mokbel ucciso ieri, nascondeva un tesoro. Per i PM non è stata un'esecuzione ma un tentativo di sequestro, finito male. Addio Giorgio Faletti, artista dai mille volti, dal drive-in a romanzi noir. Martedì ci saranno ad Asti i funerali. E per i mondiali, nel derby europeo tra Germania e Francia, la Germania ha battuto la Francia 1-0, quindi va in semifinale. L'8 luglio affronterà la vincente di Brasile-Colombia, in programma questa sera alle 22. E partiamo quindi dalla visita del presidente uscente della Commissione Europea Barroso a Roma. Nessun braccio di ferro con Berlino, nessun derby tra flessibilità e rigore. Il presidente del Consiglio Renzi approfitta del primo impegno ufficiale del semestre europeo a guida italiana, del faccia a faccia con il presidente della Commissione Europea Manuel Barroso, per mettere a tacere le voci di una contesa in corso con la Germania. La flessibilità non è una richiesta dell'Italia, serve all'Europa, non all'Italia. All'Italia serve il processo di riforme che abbiamo iniziato. Nessuna polemica con il governo tedesco, il rapporto con la Merkel è ottimo, aggiunge il premier, che non rinuncia però a bacchettare la Bundesbank. Credo che il compito della Bundesbank sia quello di assicurare il proprio obiettivo statutario. Non credo che sia quello di partecipare al dibattito politico italiano. Renzi ricorda quindi le linee guida del semestre di presidenza italiana: da un lato rendere l'Europa più vicina ai sogni e alle istanze dei cittadini, dall'altro mostrare che l'Italia può cambiare se stessa. Stabilità e crescita devono marciare insieme, questione di buonsenso, commenta quindi il presidente Barroso. Sosteniamo pienamente la presidenza italiana, dice ancora il numero uno della Commissione, ha obiettivi chiari, tra cui in particolare la necessità di riforme. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in agenda c'è anche il tema dell'emergenza immigrazione. Tre egiziani fermati questa mattina a Siracusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Due sono minorenni, avrebbero avuto un ruolo organizzativo anche nello sbarco dello scorso 2 luglio di 154 migranti. Ma gli arrivi non si fermano, le 834 persone soccorse nella notte dalla Marina Militare nel canale di Sicilia sono giunte questa mattina all'alba a Reggio Calabria. Erano partiti presumibilmente dalla Libia, da cui proviene circa il 96% dei flussi. Almeno 3 milioni le persone pronte a imbarcarsi dal paese, dice il Ministero del Lavoro libico. Una minaccia a cui oggi ha risposto il Premier Matteo Renzi, annunciando che il primo obiettivo del semestre europeo di presidenza italiana sarà di aiutare le autorità libiche a rendere effettivi i risultati delle ultime elezioni. Tra le ipotesi in campo, anche la richiesta d'aiuto all'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, che potrebbe gestire le partenze dai porti libici, distinguendo tra richiedenti asilo e semplici migranti. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E un altro dossier internazionale, come dicevo, è quello sugli F-35, gli aerei militari, fiore all'occhiello dell'aviazione americana. Sono stati fermati tutti i voli per una questione di sicurezza. In Italia, che ha in progetto l'acquisto di questi velivoli, la reazione non si è fatta attendere. Il PD ha fatto sapere che non intende acquistare aerei poco sicuri, ma di questo poi parleremo, come dicevo, dopo con un esperto di armamenti e sicurezza. Invece, passiamo alle novità che arrivano dall'inchiesta sul Mose di Venezia. È finito in manette l'ex braccio destro dell'allora ministro dell'economia Tremonti, Marco Milanese. Nel 2010 avrebbe ricevuto dagli ex vertici del consorzio Venezia Nuova 500.000 euro per agevolare la concessione dei finanziamenti al Mose da parte del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Con questa accusa è stato arrestato per corruzione Marco Milanese, l'ex deputato PDL ed ex consigliere politico dell'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti, già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Accusa già circostanziata nell'ordinanza con cui un mese fa il GIP del Tribunale di Venezia, Alberto Scaramuzza, aveva disposto l'arresto tra domiciliari e carcere di 35 persone. Secondo quanto si appreso, infatti, la richiesta di custodia cautelare per Milanese, che figurava già tra gli indagati dell'inchiesta sul sistema di barriere per proteggere Venezia dall'acqua alta, era stata avanzata dalla Procura il 10 giugno scorso. L'arresto sarebbe scattato solo ora per il rischio di reiterazione del reato. A carico dell'ex braccio destro di Tremonti, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo di beni per 500.000 euro, il prezzo del reato. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo l'omicidio del cassiere del gruppo Mokbel, ricordate, è avvenuto ieri a Roma, di cui abbiamo parlato lungamente, in un'abitazione in provincia di Frosinone, sempre nel Lazio, sono state scoperte delle bustine con pietre preziose, diamanti, insieme a centinaia di migliaia fra dollari ed euro. La sua non è stata un'esecuzione. Silvio Fanella è morto perché avrebbe reagito ad un tentativo di sequestro. Ne sono convinti gli inquirenti che indagano sull'omicidio del broker, ritenuto il cassiere di Gennaro Mokbel, il faccendiere mente della truffa Fastweb. L'intenzione del comando che ieri ha fatto irruzione nel suo appartamento era probabilmente quella di ottenere da Fanella informazioni sul tesoro. Si parla di 50 milioni di euro fatto sparire dai responsabili della truffa. Una parte di quel tesoro oggi è stato scoperto in una villa di Fanella in provincia di Frosinone, nascosto in un sottotetto. I carabinieri hanno trovato alcune scatole piene di diamanti e poi contanti per oltre 400.000 euro e 6 Rolex. Gli inquirenti attendono ora di interrogare Giovanni Battista Ceniti, uno dei tre killer, rimasto gravemente ferito nel tentativo di sequestro. Il giovane, con un passato nell'estrema destra, è piantonato in ospedale. Gli investigatori stanno anche cercando di identificare i suoi due complici, fuggiti dopo l'omicidio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E occupiamoci ora invece di dati economici. Torna a crescere dopo 2 anni la spesa delle famiglie italiane. Secondo l'Istat, nel primo trimestre è salita dello 0,2%. Altra buona notizia riguarda la pressione fiscale, che nel primo trimestre di quest'anno è diminuita dello 0,3%, portandosi quindi al 38,5%. E dopo Molise, Campania e Basilicata, dove sono già iniziati i primi di luglio, da domani i saldi estivi partiranno anche nelle altre regioni. Secondo Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per abbigliamento e calzature 237 euro. Spostiamoci adesso sulla pagina estera. In Israele la tensione è sempre alta, probabilmente a breve potrebbe arrivare un cessate il fuoco da Hamas. Spetta loro, dice così il governo di Tel Aviv. Oggi si sono intanto celebrati i funerali del 17enne palestinese ucciso a Gerusalemme Est. I funerali di Mohamed Abu Qdeir, il ragazzo palestinese rapito e ucciso a Gerusalemme Est, si sono svolti nel primo venerdì di Ramadan, il giorno della preghiera collettiva in moschea. Le esequie sono state precedute da scontri fra manifestanti e polizia israeliana a Gerusalemme e Ramallah, in Cisgiordania. Centinaia di persone hanno atteso l'arrivo della salma a Shufat, il quartiere dove abitava il giovane. Sono ore critiche, la tensione resta alta e il Medio Oriente sembra un passo dalla guerra, anche se tutti sembrano scongiurare l'ipotesi del conflitto, da un lato Israele, dall'altro l'autorità nazionale palestinese e Hamas. L'ondata di vendette, scontri e raid aerei seguiti all'uccisione dei tre giovani seminaristi ebrei sembra non cessare, ma uno spiraglio arriverebbe proprio dall'organizzazione islamica. Hamas potrebbe annunciare un cessate il fuoco, un piccolo traguardo forse reso possibile dalla mediazione di ufficiali dell'intelligence egiziana. Il cessate il fuoco tocca a loro, dice il governo di Tel Aviv riferendosi proprio ad Hamas. Intanto, come afferma il premier Netanyahu, la caccia agli assassini dei tre adolescenti è ancora aperta. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi invece una notizia che riguarda la scuola, tornando sulle notizie italiane. Il piano di edilizia scolastica voluto dal Presidente del Consiglio Renzi prende il via, coinvolgerà 20.845 edifici scolastici per investimenti pari a 1,94 miliardi di euro. 4 milioni di studenti e una scuola italiana su due sarebbero protagonisti quindi di questo primo progetto, che porta nell'arco del biennio 2014-2015 a avere scuole più sicure e più nuove. E adesso appunto la scomparsa, come vi dicevo all'inizio, di un'anima versatile qual era Giorgio Faletti. Da pochi mesi aveva scoperto di essere malato e da qualche settimana era rientrato da Los Angeles, dove aveva trascorso un periodo di cure in un centro specializzato. Poi il nuovo ricovero a Torino all'ospedale Molinette e l'addio. Sul suo profilo Facebook le ultime parole: a volte immaginare la verità è molto peggio che sapere una brutta verità. La certezza può essere dolore, l'incertezza è pura agonia. Parole che tracciano l'uomo Faletti meglio di tante altre. Con lui scompare una figura unica, irripetibile, completa. Perché Faletti è stato cabarettista, attore, cantante, scrittore, compositore di musiche, paroliere, sceneggiatore e pittore. La favola della sua popolarità nasce però dall'ironia grottesca ma mai stupida di Drive-In. Per arrivare al successo di Io uccido nel 2002, che è solo il primo di una lunga serie di best seller, non possiamo dimenticare la musica. Testi cantati da lui come l'indimenticabile Signor Tenente, ma anche cantati da Mina nella splendida Traditore. Verrà allestita lunedì all'ospedale Molinette di Torino la camera ardente, martedì i funerali nella sua Asti. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere questo riassunto della giornata parliamo brevemente di mondiali. È la Germania la prima semifinalista dei mondiali Brasile 2014, battendo 1-0 la Francia al Maracanã di Rio de Janeiro con un gol di Hummels al 13° del primo tempo. I tedeschi quindi si qualificano alla semifinale, che si giocherà l'8 luglio a Belo Horizonte. La Germania affronterà la vincente di questa sera tra Brasile e Colombia. C'è un ascoltatore un po' pignoletto che dice: Michele da Martignano, cara Roberta, questa sera alle 22 non è corretto, questa sera alle 10 oppure tra poco alle 22, sbaglio, ma non credo che sia una tautologia dire questa sera alle 22, non credo che sia scorretto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso ve le ricordo brevemente. Intanto guardavo i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Chi ricorda Giorgio Faletti? Domenico, che dice: lo ricordo la TV quando ero ragazzino, mi ha fatto ridere tanto, l'ho scoperto piacevolmente, scrittore, con i suoi libri mi mancherà. E Rosanna, che scrive: quante belle risate grazie a lui, era veramente tante cose Giorgio Faletti. Però prima di rendergli questo piccolissimo omaggio, vi ricordo quali sono state le altre notizie di oggi. A Roma Barroso lancia Renzi e intanto Renzi dice la Bundesbank, la banca centrale tedesca, non entri in politica nel dibattito italiano. E poi le riforme, regge il patto tra Renzi e il Cavaliere, ma sembra a rischio l'incontro col Movimento 5 Stelle che è previsto per lunedì. I dati dell'Istat: cala il potere di acquisto per le famiglie, che però tornano a spendere, gli italiani risparmiano meno e il tasso di investimenti è ai minimi. Gli F-35, il Pentagono li lascia a terra per problemi di sicurezza, scattano le proteste in Italia, non compriamoli. Anche su questo, se volete, potete esprimere le vostre opinioni sia sulla pagina di Effetto Notte sia gli sms al 349 238 6666. Poi l'arresto di Marco Milanese per corruzione nell'inchiesta sul Mose. Manette all'ex collaboratore dell'ex ministro Tremonti, perché è a rischio di reiterazione del reato. E poi al via i quarti dei mondiali, la Germania elimina la Francia alle 22, Brasile Colombia. E adesso, prima di sentire tra poco la testimonianza di un grande personaggio su Giorgio Faletti, vorrei farvi sentire l'intervista che feci qui io anni fa, nel 2004, a Radio 24. La trasmissione di allora si chiamava Diario. Venne proprio Giorgio Faletti a trovarmi in studio col suo secondo libro, e ve ne faccio sentire, cioè, stette un'ora con anche gli ascoltatori in diretta, fu inevitabilmente un successo la sua presenza. Vi faccio sentire giusto 4 minuti di quell'intervista. Innanzitutto, Giorgio, io devo dirti, questo tuo nuovo libro, Niente di vero tranne gli occhi, mi ha commosso dall'inizio, tu mi hai commosso e lusingato, perché ho letto nella dedica a Roberta l'unica, e quindi non pensavo che tu me l'avessi dedicato a questo libro. Guarda, sono anni che ti ammiro da lontano e sono anni che soffro in silenzio. Mi sembra, in realtà ho iniziato la mia carriera di scrittore solo per arrivare a questo. Veramente, esatto. Tu pensa a volte questi meccanismi impensabili. Imprevisto, hai visto? Era lontanissimo. A Roberta l'unica, che invece in realtà è la tua fortunata moglie. Vero? Non so quanto fortunata, moglie senz'altro. Penso proprio di sì, perché tra l'altro tu sei anche un falso modesto, Giorgio Faletti, che si è detto in un'intervista: io sogno di essere un cigno, invece sono il brutto anatrocolo. Invece sei bellissimo. Ti ringrazio, detto questo, vorrei dirti una cosa. Dimmi. Può dire? No, sì. Lancio un proclama biblico. Sì. Andate e moltiplicatevi, cioè predica la buona novella, fai dei proseliti in modo che ci sia un esiguo ma nutrito numero di persone che mi ritiene in questo modo, perché credo proprio veramente... di sì, Giorgio. Poi con l'età sei diventato sempre più bello, secondo me. Io ti seguivo quando ero bambina a Drive-In. Poi bisogna ricordarlo, Giorgio, che adesso, come dicevo, è considerato da molti un genio, Giorgio. Da molti anche il miglior scrittore italiano vivente, una responsabilità incredibile. Ha fatto mille altre cose nella sua vita, perché tu sei laureato in giurisprudenza, hai fatto il pubblicitario, hai fatto il pilota di rally, l'autore di canzoni, il cantante, no? Signor Tenente, sì. Nel 94 sei arrivato secondo a Sanremo, e poi lo scrittore. Questa è una cosa che è nata, cioè, tanto per sfatare un mito. Io vorrei dire che ci tengo a sottolineare il fatto che non è che mi sono inventato dall'oggi al domani. Questa è una cosa che io facevo per il mio piacere e per una mia necessità. La scrittura di satira, prima facevi comica, no? No, io scrivevo dei racconti seri per me, perché mi piaceva raccontarmi in un modo diverso, anche con un mezzo letterario. Solo che era un periodo in cui ero molto distratto, ero giovane, scapestrato, avevo un periodo di successo come umorista e poi come autore di canzoni, anche come Termine, scritto per Branduardi. Esatto, e poi ho integrato questa componente umoristica con un qualcosa che mi avvicinasse in qualche modo a quello che è sempre stato per me un idolo e un obiettivo, che era Giorgio Gaber. E per combinazione l'ho conosciuto, Giorgio Gaber. Sì, l'ho conosciuto, e c'era, devo dire, da parte mia c'era una forma di idolatria. Per quello che riguarda lui, penso che mi stimasse in qualche modo, e non fosse altro per il fatto che avevo dichiarato a più riprese di essere un suo fan sfegatato. E poi è successo per caso, come succede nel 95% dei casi, che ho fatto leggere a una persona questi racconti che io avevo scritto, e questa persona mia, che è uno scrittore a sua volta, mio amico Piero Degli Antoni, che saluto caramente, e che ricordo per tutte le sere nelle mie preghiere. Addirittura San Piero, se non fosse stato per lui non sarebbe cominciato niente. E sono andato da un editore, cioè da una serie di editori, finché mi sono trovato davanti il mio attuale editore Baldini Castoldi Dalai, che ha pubblicato Nella persona di Vero tra negli occhi e Io uccido, che è il grande successo che ti ha lanciato, insomma. Nella persona di Alessandro Dalai, il quale mi ha detto: guarda, dei racconti papale e papale non me ne frega niente, però se mi porti un romanzo scritto così ne parliamo. Io sono tornato con un romanzo scritto, non so se era scritto così, però come sapevo, e ne abbiamo parlato ed è stato pubblicato Io uccido, che a tutt'oggi ha venduto un milione e mezzo in più, no? Un milione e mezzo di copie, ma soprattutto la cosa interessante, è stato tradotto o si appresta ad essere tradotto in una quindicina di lingue. E questo era Giorgio Faletti, che intervistai appunto qualche anno fa qui a Radio 24, la trasmissione che conducevo allora a Diario. Vedo già diversi vostri messaggi, per esempio Tonino da Civitavecchia, che scrive: Faletti artista poliedrico sicuramente, ma io lo ricordo soprattutto come una brava persona. Con la sua scomparsa il senso che tutto finisce è ancora più grande. E poi Giorgio: un caro dolce saluto a Giorgio Faletti, il ricordo dei suoi occhi limpidi è il più bel regalo che ci lascia. Adesso vorrei che il ricordo, la testimonianza di chi lo ha conosciuto bene da vicino. Minchia, signor tenente, che siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale, e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età. E questa naturalmente la conosciamo tutti, la conoscete tutti, la canzone di Giorgio Faletti, signor tenente, che segnò una svolta nella sua carriera già brillantissima fino allora. Era stato un grande attore comico ai tempi d'oro di Drive-In, però era uno che amava molto sperimentarsi, appunto un artista poliedrico, no, da scrittore, comico, musicista, poeta, anche attore. Ma questa canzone, questa sua dimensione musicale anche di autore, chi la scoprì prima di tutto? Pippo Baudo. Pippo, eccomi qua. Ciao Pippo. Perché te l'aveva fatto sentire, vero? Che era, cos'era, forse soltanto parole? Eravamo in macchina un giorno e mi ha detto: senti questo pezzo che ho fatto, e non c'era la parte musicale perché era soltanto una cosa detta. E a me piacque molto, dissi: guarda, siccome potremmo portarlo a Sanremo, lui non ci pensava nemmeno ad andare a Sanremo. E dici: però bisogna metterci un po' di musica, perché se no non può entrare in concorso, perché è un pezzo di canzoni. E quindi fece questa specie di rap, un rap che conteneva però dei testi, un rap civile, si può dire, no? Un rap civile, sì, di testimonianza. Fu apprezzato, fu capito subito dal pubblico, cioè il pubblico di Sanremo è un pubblico strano, che non è vero che non apprezzi i pezzi impegnati. Noi in genere crediamo che sia il caso di fare soltanto papaveri e papere, insomma, però quando un pezzo ha una certa consistenza viene apprezzato dal pubblico, infatti lo fu. E per poco non mise il feste perché arrivò secondo, e poi fece una cosa bellissima perché mi disse: se per caso la cosa va bene, vendo dei dischi, tutto quello che incasso lo porto alle famiglie delle vittime di mafia. E così fece, no? E così fece, si andò a Palermo, e dallo stupore anche dello stesso questore, eccetera, visitò alcune famiglie, insomma, di gente che stava male, appunto perché vittime della mafia, e donò i suoi diritti d'autore. Ed era il 1994, edizione di Sanremo di quell'anno, e tu lo scopristi anche in questo suo talento musicale, autorale. No, prima come aveva fatto nel fantastico. 90, fantastico, benissimo, devo dire, lo fece molto bene, fu un fantastico riuscito, lui faceva tre personaggi e li indovinò tutti e tre. Era un uomo molto molto molto impegnato, molto proteso a produrre, a fare, e a fare sempre cose diverse. Infatti non mi sono meravigliato quando poi me lo sono trovato come romanziere di successo, come attore di successo, perché era questa la sua il suo modo di concepire e fare lo spettacolo, cioè fare sempre cose diverse. Aveva un'energia febbrile, evidentemente, anche tanta creatività, sì, dentro, no? Sì, che la creatività era iosa, perché era capace, in un giorno faceva 3 canzoni, faceva 10 monologhi, cioè aveva una prolificità, una capacità di produrre che era notevolissima. Senti, tu quindi questo per il suo talento creativo, professionale, da un punto di vista umano, visto che lo hai avuto così tanto vicino, già nel 90 sì. Appunto avete fatto Fantastico, poi 4 anni dopo Sanremo, ma intanto vi siete frequentati, che persona, ognuno poi lo racconta a modo suo, tutti naturalmente parlano di una persona per bene, fra l'altro, no? Che sembra una cosa un po' fuori moda. Molto per bene, non ero una persona capace di fare cattiverie, era dolce, era questo suo grande amore verso la mamma che aveva. La mamma aveva avuto soltanto lui, e papà era mancato presto, e lui viveva per la mamma. E infatti appena guadagnò un po' di soldi comprò una grande casa, preparò una bella accoglienza alla mamma, la quale poi partecipò a uno spettacolo in suo onore. Mi ricordo Santo Stefano Belbo, che era patria di Luigi Pavese, dove poteva apprezzare il figlio in tutto il suo fulgore artistico e anche l'aspetto generoso, insomma, perché veramente era legatissimo alla mamma. Poi dopo questo suo periodo all'Elba, da quando è diventato romanziere mi sembra si sia trasferito. L'Elba, io gliel'ho chiesto perché l'Elba, ma l'Elba... mi ha detto che gli creiamo un'atmosfera di pace, di tranquillità, di serenità attraverso la quale riusciva a scrivere con maggiore facilità, insomma si ispirava di più, l'Elba gli piaceva tanto, infatti quando era libero andava all'Elba. Senti, l'ultima volta che l'hai visto? L'ho visto purtroppo un po' d'anni fa, perché partecipò a una mia domenica in nella quale fece un suo ritratto molto ampio di mezz'ora, in cui lo descrisse appunto come comico, come autore di canzoni e come romanziere, come anche attore di cinema, perché ha fatto un paio sì, di film certo. In cui era bravissimo. Anche prima degli esami, ricordiamo. Recitava benissimo, recitava. È una grande perdita sul piano umano, sul piano artistico. Cioè si perde un grande artista e si perde anche un uomo per bene. Grazie Pippo Baudo, un abbraccio per questo ricordo. Ti ringrazio molto a te per il pensiero che hai avuto nei confronti di Giorgio. Grazie Pippo. Grazie. Ciao. Ciao ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi, mi dedico ancora brevemente ai vostri messaggi di ricordo, visto che abbiamo dedicato un omaggio a Giorgio Faletti. C'è Gigi da Bari che scrive, ha fatto vibrare le nostre emozioni, e poi sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Luisa che dice risate in drive-in, belli tosti i suoi gialli. Alberto fa un lunghissimo messaggio, cerco di sintetizzarlo. Giorgio Faletti se n'è andato relativamente giovane, come giovane al giorno d'oggi, un uomo di 63 anni che avrebbe ancora avuto tante cose da dire e da fare. Effettivamente sono dispiaciuto, certo, perché era un personaggio che seguivo dai lontanissimi tempi dal televisivo drive-in, ma soprattutto per un altro motivo, la sua morte sottolinea ancora di più che la vita è breve, imprevedibile, che dobbiamo fare il possibile per cercare di usarla al meglio. E poi altre cose belle che scrive Alberto e altri ascoltatori. Adesso però, questa naturalmente è stata praticamente in Italia un po' la notizia principale, anche i siti continuano ad averla in primissimo piano, i siti dei vari mezzi di informazione. Questa è una delle notizie, però vi ricordo anche le altre della giornata. Con Barroso, presidente uscente della Commissione europea, che in visita a Roma ha elogiato Renzi, intanto Renzi chiede che la banca tedesca resti fuori dal dibattito italiano, e Barroso ribadisce ci vuole un'Italia forte. Poi F-35, il Pentagono li lascia a terra dopo un incidente, vuole ulteriori verifiche, e il PD commenta no ad aerei insicuri, e tra poco ne parleremo. L'arresto di Marco Milanese, Manetti all'ex braccio destro di Tremonti per corruzione nell'inchiesta sul Mose, è a rischio reiterazione del reato. Istat e crisi, cala il potere d'acquisto delle famiglie che però tornano a spendere, domani partono i saldi ormai in tutta Italia. L'omicidio di Roma, Fanella, il cassiere di Mockbell ucciso ieri, nascondeva un tesoro, e per i PM non è stata un'esecuzione ma un tentativo di sequestro finito male. E poi i mondiali, nel derby europeo la Germania batte la Francia 1-0 e l'8 luglio affronterà la vincente di Brasile-Colombia in programma questa sera alle 22:00. Quindi avete sentito questa polemica infinita che riguarda gli F-35, i caccia militari, si diciamo riemerge con la decisione che ha preso il Pentagono. L'intera flotta di 97 aerei militari Lockheed Martin Corp F-35 americani rimarrà a terra fino a che non verranno compiuti i controlli necessari. Questa direttiva arriva appunto dal Pentagono, dall'Aeronautica, dalla Marina, a pochi giorni dall'incidente in una base militare in Florida avvenuto lo scorso 23 giugno, quindi molto recentemente. I primi accertamenti non hanno dato risposte soddisfacenti sul motivo dell'incendio di uno di questi F-35, che per fortuna non ha causato vittime. Voi sapete che anche l'Italia si doterà, se ne parla da tempo, di F-35, ma come ha ribadito la ministra della Difesa Pinotti, il programma complessivo resta sospeso e sarà definito nuovamente dopo la stesura del libro bianco. Ha detto che definirà ciò che serve per soddisfare le nostre necessità di difesa. L'aveva detto, se non sbaglio, anche qui il sottosegretario alla difesa tempo fa, qui effetto note. Ma intanto coinvolgo Andrea Margelletti. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a te, grazie per l'ospitalità, naturalmente un saluto ai tuoi ascoltatori, ai tuoi e ai vostri ascoltatori. E grazie a te Andrea per essere qui, presidente del CESI, Centro Studi Internazionali, al quale chiedo, tra l'altro tu Andrea, che ne pensi di questi F-35? Sei stato l'unico italiano, insomma uno dei pochi tra italiani civili e non militari a andare sul campo proprio lì negli Stati Uniti, a vederli da vicino questi F-35? Sì, il mio istituto, il Centro Studi Internazionale, ha preparato un report che peraltro è disponibile online, scritto da Francesco Tosato, il mio analista per gli affari militari. Allora, diciamo subito una cosa, l'F-35 per l'Italia è un totem, cioè è diventata una vicenda ideologica che di tecnico ha assai poco. Il vero problema non è F-35 sì o F-35 no, il vero problema è le capacità, cioè lo Stato italiano vuole dotarsi di determinate capacità? Se vuole dotarsi di determinate capacità, l'F-35 è il cacciabombardiere occidentale di quinta generazione, le chiacchiere stanno a zero da questo punto di vista. Però bisogna anche dire onestamente che l'F-35, ma come gli aerei che ha in dotazione l'aeronautica adesso, cioè gli MX, Tornado, il Typhoon e ancora prima di loro quelli che ci sono stati, è un aereo che sta vivendo la sua fase sperimentale. Sì, ci sono milioni di persone che guidano una Volkswagen, una Mercedes classe A, e moltissimi ricorderanno che la classe A si ribaltò alla prova dell'Alce. Cioè, l'F-35 non sta per entrare in linea con le nostre forze armate domani mattina. I problemi che ci sono, anche se Andrea, perdonami se ti interrompo, anche se lì si tratta di una spesa di tutt'altro tipo, no? Diciamo che la polemica era più su quando si è parlato, è cominciato a parlare di spending review, di crisi, di necessità di tagli. Si è detto, con tutto quello che costano questi F-35 è proprio indispensabile dotarcene, specie di un numero consistente. Adesso mi pare siano arrivati a 6, no? Se non sbaglio, quelli che servirebbero all'Italia. Allora, il nostro paese parla di 90 velivoli. Il punto vero è che parliamo, ripeto, di capacità, perché le crisi internazionali alle quali il nostro paese è chiamato in consessi molto ampi ad intervenire o vuole partecipare in ambiti di coalizioni internazionali non si sviluppano nell'arco di 25-30 anni, ma spesso sono improvvise, accelerazioni improvvise. Pensiamo ai Balcani, pensiamo all'Iraq di Saddam Hussein nel 1990, pensiamo alla Libia più recentemente o alla situazione drammatica in Iraq e in Siria di queste ore, di questi giorni. Ebbene, un programma di questo genere vogliono 15 anni, 20 anni, 30 anni per portarlo a compimento. Quindi non è che dici, si sviluppa la crisi, vado, prendo l'aereo e in 5 minuti vado a operare. È come immaginare che si sviluppa una rapina in centro e di colpo dobbiamo fermi tutti, bisogna che la polizia arrivi con le macchine, fermi tutti, bisogna comprare le macchine da polizia. Nel momento che sono arrivati i poliziotti con le macchine, dopo aver fatto il bando di gara, dopo averlo acquistato, dopo aver fatto la scuola guida della polizia, molto probabilmente i rapinatori sono già morti di vecchiaia. Detto questo, è un problema di politico, di capacità. Se l'Italia vuole avere determinate capacità, e bene ha fatto il ministro Pinotti a fare un libro bianco, ad aprire una discussione anche ai cittadini più ampia su quello che devono essere le ambizioni del nostro paese, le capacità che il nostro paese vuole avere. Quindi il problema non è adesso in questo momento c'è crisi e quindi compreremo uno strumento se si manifesterà una situazione di criticità internazionale. In quel momento sarà già tardi. È chiaro. Comunque il PD si è fatto sentire attraverso la voce di Gian Piero Scanu, capogruppo del PD in commissione difesa alla Camera, che appresa questa notizia ha detto: le notizie che arrivano dagli Stati Uniti d'America confermano la bontà della nostra proposta di moratoria, cioè di sospensione sugli F-35 e di richiesta di un dimezzamento delle spese. Il rigore con cui la difesa americana tratta questo tema ci tranquillizza molto. Il Pentagono conferma di occuparsi in maniera molto seria delle proprie competenze. Quindi insomma, diciamo, siccome la polemica, come hai detto tu, un totem era nell'aria, non era soltanto delle opposizioni, non so, come Movimento 5 Stelle o SEL, anche nel PD stesso c'era molti mal di pancia e contrarietà, no, in questi mesi, quando si è parlato degli F-35, della possibilità di ridurli o addirittura di non prenderli. Quindi al momento, diciamo, da un punto di vista politico, questa è la posizione del PD, che è anche il partito di maggioranza, insomma. Sì, vi sono numerosi malpancisti, bisogna ricordare che l'Italia è un partner determinante del programma F-35, ma che le spese aggiunte per rimediare ai problemi che il velivolo manifesta, e ripeto, rendiamoci conto che se non viene sviluppato bene un cellulare, e quindi noi possiamo trovare un bug sul cellulare, non funziona, se non viene sviluppato bene un aereo da combattimento non funziona, il pilota muore, la gente muore, quindi meno male che ci sono questi problemi e che vengono scoperti, che vengono sistemati, perché le spese aggiuntive per porre in essere le attività di rebuilding del programma e di sistemazione dal punto di vista dei motori, dell'avionica e del software, sono a spese del contribuente americano, quindi noi non paghiamo una lira di più. Mi dici solo, proprio in conclusione, in pochi secondi se riesci, Andrea Margelletti, noi nella costruzione di questi aerei quanta parte abbiamo? Beh, noi siamo uno dei partner principali dopo la Gran Bretagna, ovviamente capofila sono gli Stati Uniti, ma dopo la Gran Bretagna sarà una parte principale. Peraltro poi a Cameri si svilupperà, quando il programma andrà fra qualche anno a regime, un sistema dove potremmo, soprattutto dal punto di vista della logistica, teniamo conto che gli aerei sono destinati a rimanere in servizio per circa una quarantina d'anni, e tutto quello che conta tanto non è soltanto la costruzione del velivolo, quanto soprattutto il mantenimento per 40 anni, è lì il vero business, e la FACO di Cameri potrà diventare il lab di supporto logistico per gli F-35 non solo italiani ma di tutto il Mediterraneo, comprensivi le forze armate americane che operano nel Mediterraneo, quindi dalle forze dell'Air Force americana che stanno in Germania e in altre basi, alle portaerei che incrociano nel Mediterraneo e ai velivoli del Corpo dei Marines. Insomma, anche tutto l'indotto. Sì. Il business c'è. Ci darà molto tempo. Infatti, dopo questa notizia americana, effettivamente bisognerà vedere come si evolve la situazione. Grazie tanto, Andrea Margelletti. Grazie a voi. Ciao, Andrea. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Brevissimamente le notizie prima di passare al prossimo tema con, vi dicevo, Barroso, presidente uscente della Commissione Europea, che è venuto in visita a Roma. Renzi intanto ha attaccato un po' la Bundesbank, la banca centrale tedesca, dicendo: non si occupi del dibattito interno italiano, del dibattito politico italiano. E poi ne abbiamo parlato tanto, è morto Giorgio Faletti, dai libri alla TV un artista completo, i funerali ci saranno martedì ad Asti, la sua città natale. Per le riforme regge il patto tra Renzi e Berlusconi, ma c'è a rischio l'incontro di lunedì con il Movimento 5 Stelle, almeno queste sono le ultime notizie. Cala il potere d'acquisto delle famiglie secondo i dati Istat, che però tornano a spendere. Gli italiani risparmiano meno e il tasso di investimento è ai minimi. Abbiamo sentito adesso che il Pentagono lascia a terra gli F-35 per problemi di sicurezza e scattano le proteste anche in Italia. Il PD e altri che dicono: non compriamoli. Botta e risposta tra Floris e la RAI. Lui dice che se ne va per una scelta editoriale, l'azienda invece ribatte che non c'è nessun problema di questo tipo. E poi abbiamo sentito della Germania che ha battuto la Francia 1-0, e stasera ci sarà poi la partita Brasile-Colombia. La Germania poi affronterà l'8 luglio la vincitrice tra le due. Europa 24 notte. Poi invece, a proposito di Europa, diciamo, riepiloghiamo le puntate precedenti, ci sarebbe da dire, con Sergio Nava, perché è stata una settimana molto intensa questa per l'Europa, no? Per l'Unione Europea. Quindi quali sono state le tappe di questo, si è insediato un nuovo Europarlamento? Innanzitutto buonasera. Ciao, Roberto, Sergio. Buonasera agli ascoltatori. Sì, abbiamo, è stata una settimana, abbiamo seguito da vicino a Strasburgo, partendo da martedì con il Parlamento Europeo. Domani, tra l'altro, alle 7.15 con un Euro Reportage racconteremo un po' anche l'atmosfera che abbiamo respirato tra martedì e mercoledì a Strasburgo. Che hai respirato tu intensamente, perché eri lì presente, per l'appunto. E comunque è stata una settimana importante, perché ha riaperto un discorso importante come era quello del patto della flessibilità all'interno del patto di stabilità. Forse questo, si spera, porterà qualche chiarimento finalmente, visto che il vertice giugno non aveva chiarito bene le cose. Si è scoperto che insomma è un Parlamento che ancora deve, europeo, che deve ancora insomma formarsi e amalgamarsi bene, perché Martin Schulz, rieletto presidente del Parlamento Europeo, non ha avuto tutti i voti che avrebbe dovuto avere, ne sono mancati 70. E poi c'è stata appunto ieri la polemica che tra la Bundesbank e il nostro governo. Oggi, lo dicevi tu poco fa, Roberta, Renzi in conferenza stampa con Barroso ha detto insomma la Bundesbank è la Bundesbank, io parlo con la Merkel. E in effetti quello che sta accadendo è che probabilmente si sta creando invece un asse parallelo importante tra il nostro ministro dell'economia Padoan e il ministro Schäuble. Lo sgambetto gli fa Renzi, Padoan. No, in realtà è un asse sotterraneo tra due persone che si conoscono, perché Padoan insomma è stato a lungo nell'Ocse, un pezzo importante dell'Ocse, e che insomma probabilmente il vero lavoro alla fine, la vera ricerca dei margini di flessibilità si farà a questo livello. Insomma, si cercherà probabilmente di dire non si sforano i limiti del patto, il 3% del deficit, però si cercherà magari di provare a scorporare alcuni investimenti, soprattutto i cofinanziamenti dei progetti europei, dal calcolo. C'è anche una notizia abbastanza curiosa, so che tu sei molto sensibile ai temi della parità di genere, Roberta. Certamente, e pare che in genere sensibile. Questa è una cosa di cui oggi non si è parlato molto, ma pare che il presidente designato della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, abbia detto su 28 nomi di commissari ci sono solo due donne, una l'italiana Mogherini e c'è un'altra, ora mi sono dimenticato, però una è la Mogherini. Ebbene, lui ha detto: se volete portafogli importanti, paesi membri, se volete o governi, se volete portafogli, candidate delle donne, perché ne ho due su 28. E in effetti è stata una bella mossa di Juncker, questa, una bella mossa dire. Juncker anche a caccia insomma di consenso, beh, però, fino insomma a un certo punto, però è un segnale abbastanza, se vogliamo, un po' inquietante questo. Solo due su 28, certo, nomi, certo, possibili alla prossima commissione siano donne, ce n'erano molte di più nella scorsa commissione Barroso. Infatti leggevo proprio qualche giorno fa su Corriere della Sera, c'era proprio una petizione di varie esponenti politiche, non solo internazionali, che dicevano si parla di femminicidi in Italia, non solo, si parla del premio a Malala, la ragazzina pakistana che era stata gravemente ferita da integralisti, perché poi le ragazze nigeriane che volevano studiare rapite, chissà dove sono finite, ci si straccia tanto le vesti, e poi invece in queste situazioni dove bisogna dimostrare al mondo che c'è parità di genere, pari dignità, e che si riconosce alle donne il ruolo che devono avere, invece al momento giusto, quando sarebbe opportuno farlo, si ricade nelle solite dinamiche. Sono probabilmente, no, riflessi condizionati, cioè poi alla fine è una sommatoria di riflessi condizionati che porta a 26 possibili nomi di commissari uomini e solamente due. Bisogna dire, in questo l'Italia però è una delle due che ha proposto una donna. Poi insomma i nomi sono ancora da fissare, Juncker ancora deve comporre la squadra, siamo ancora in comunque una fase di donne in gamba, ce ne sono moltissime, la solita storia che gli uomini vogliono insomma potere per sé anche a quel livello. Vediamo se almeno l'appello di Juncker smuoverà un po', non dico le coscienze, ma almeno le opportunità, diciamo così. Grazie Sergio Nava. Grazie a te. Ciao Sergio. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E adesso invece cerchiamo di capire, prima di approfondire la situazione ai mondiali, che tempo farà il colonnello Mario Giuliacci, perché qui non si capisce niente, non so se l'estate è partita, non abbiamo avuto le mezze stagioni, l'estate non si sa dove sia finita. Colonnello Giuliacci. Sì, ciao Roberta, buonasera. agli ascoltatori. Beh, si vede che tu abiti al nord, perché quelli del centro-sud dicono: ma che bel sole che abbiamo, ma come fa caldo, anche troppo caldo, no? Invece al nord è vero, da un mese abbiamo cieli grigi, molti giorni, cieli piovosi come questa sera sul Piemonte e sulla Lombardia, però purtroppo la situazione è questa e non credo che cambierà almeno per altri 5-6 giorni, ossia Italia dal doppio volto, al nord nuvole e piogge, soprattutto sulle Alpi, le regioni di nord-ovest, nuvole e piogge che poi tra martedì e mercoledì scenderanno anche al centro e tra mercoledì e giovedì debelleranno il caldo che attualmente interessa il centro-sud. Ma dando uno sguardo più vicino, diciamo quello che sarà il fine settimana, domani ritorna il bel tempo su quasi tutta l'Italia, perché questa perturbazione che ha portato piogge anche oggi, qui quindi sono... anche qui colonnello a Milano? Sì, anche sulla tua testa, non ti preoccupare. da domenica pomeriggio invece ritornano le piogge sul nord Italia, ovviamente. Ah, vabbè. Quindi, l'anima della lunedì, pausa. E poi, come dicevo, lunedì ancora piogge su Alpi regioni del nord ovest, martedì lo stesso, e così potrei proseguire fino a giovedì. No, per carità, una monotonia che non si può sopportare. Vabbè, buon sia allora, per il centro. Al cancello quello che ho detto alla fine. Vabbè, se poi volete conferma di queste belle notizie, andate su www.meteogiuliacci.it. Grazie, colonnello Giuliacci. Buon tempo a te, comunque sia. Grazie, ciao Roberto. Ciao, colonnello. Ora invece in Brasile penso che continui a fare caldo, continui a fare bel tempo, ma al di là di questo c'è chi fa brutto e bel tempo. Per la Francia brutto tempo, visto, caro Giovanni Capuano, che ha perso, quindi è fuori, e la Germania che adesso va avanti, no? Sì, per la Francia diluvia, ecco. ha perso 1-0, una partita che soltanto per pochi minuti ha provato a vincere, la Germania è nettamente superiore. Germania che va in semifinale con l'1-0 segnato da Hummels, un difensore di testa nel primo tempo, ma a lungo è sembrata superiore ed è forse la squadra più forte fin qui vista in questo mondiale, più solida, anche se non ha ancora giocato contro una sudamericana, cosa che evidentemente fin qui fa la differenza, perché questo è soprattutto il mondiale delle sudamericane, a partire, Messi a parte, ma quello lo vediamo domani, a partire da Brasile e Colombia, che invece insomma tra pochi minuti daranno vita al loro quarto di finale, che è la gara più attesa di tutti questi quarti di finale. È una gara che temono in maniera terribile i brasiliani, perché sanno di avere davanti una grandissima squadra. È una partita da 200 milioni di euro, Roberta, perché ci sono Neymar contro James Rodriguez insieme. Se li vuoi comprare fa circa 200 milioni di euro. Sappi che James Rodriguez viene quotato questa mattina, prima pagina di Marca, quotidiano spagnolo di Madrid, almeno 75 milioni di euro, ma siamo solo all'inizio. No, grazie, l'articolo non mi interessa comunque. Ma se per caso questa sera facesse il sesto gol del mondiale, magari un gol decisivo, ti garantisco che domani mattina non ne basterebbero 100. Senti, però Scolari, mi sembra, l'allenatore del Brasile, si è arrabbiato molto oggi, ha detto anche ai giornalisti: andate a quel paese, forse l'ha detto in modo un po' più... grave, diciamo. No, lui è molto arrabbiato, perché tra l'altro anche questa storia, lui ha portato, ne parlavamo, lo staff di psicologi a parlare con la squadra, che evidentemente è bloccata dal grande senso di responsabilità, il peso che ha sulle spalle, però ha capito anche che questa è un'arma a doppio taglio. Si è arrabbiato lui, si è arrabbiato anche il capitano Thiago Silva, quello che è stato visto piangere prima dei rigori e rifiutarsi di tirarli, cosa che per un capitano assomiglia a una decezione. E lui ha detto: guardate che questa cosa qui con gli psicologi la fanno tutti, l'abbiamo fatta anche noi all'inizio della nostra preparazione, quindi non rompetemi le scatole, non sta succedendo niente, anzi sono sicuro che abbiamo almeno una mano sulla coppa, l'altra mano secondo diciamo me dove. Ce l'hanno un po' più in basso perché già a partire da stasera 2, poi considera che chi vince questa sera in semifinale incontra la Germania, quindi insomma siamo nella parte nobile del tabellone. Senti, da qui non è una questione però di macismo, è proprio di persone che sono a quei livelli, che prendono anche miliardi e che quindi dovrebbero essere all'altezza di quello che fanno, no? Per dire... No, Roberta, tu stai parlando di ragazzi che hanno nella media 25-26 anni, hanno alle spalle una responsabilità veramente importante, sono professionisti, è vero, guadagnano milioni di euro, se no uno va a fare un altro mestiere, no? Lo so, però hanno addosso gli occhi di tutta una nazione, hanno delle aspettative, hanno la loro stessa ambizione. Dammi un pronostico che non avranno un'altra chance, non avranno un'altra chance in casa per un mondiale, quindi si devono fare. Senti, ma della partita di adesso dammi un pronostico del Colombia-Brasile. Secondo me alla fine passa comunque il Brasile, ma sarà lunga questa notte. Molto bene, grazie, buonanotte allora a te. Grazie Giovanni a te. Capuano, ciao. Noi ci sentiamo tra pochi istanti.